fanno roba, barbizzino, pannolini, cose, quello che serve. Sono cose che servono in casa, specialmente quando sono bambine così. Se va bene così, l'importante è che ci siano i soldi, quella è la cosa importante. Quando ci sono quelle lì, sei tranquillo, vai. Che pomponio c'è? Toretto sì. E invece mai come va? Tutto a posto, provato vai. Va bene, Toretto, va benissimo. Grazie, Toretto. Di niente, non ti preoccupare, ci mancherebbe. Quindi funziona bene. Almeno adesso funziona bene, cazzo, non come prima. Quindi, figurati tu. Io sto usando il microfono Savelta, l'ho modificato, come esce di radio? Buono? Ah, io ti sento perfetto, perfettamente, non c'è da dire niente, tu altro come lo senti? Benissimo, benissimo lo sento. Allora sei tranquillo, va benissimo Antonè. Ok, io ho cambiato la capsula sua che ci avevo originale, cioè adesso non lo so la verità, comunque sia, io ho cambiato la capsula e mi ho messo un'altra, e quindi sembra che vada bene, meglio così, sono contento. Va bene, Antonetto, tranquillo, va benissimo. Cappa, cosa stai usando? La Game Master, Gio Maria? Eia! Cappa. Andiamo bene, dai. Sto da bene il fascio, le compro di un'altra. Problemi, non mi risolve. Capito? Ma è andato bene, grazie a Dio, per cui non sanzionare non ce ne sono. Poi è tranquillo, dai. Va bene, Antonè, come radio con me? Perfetta. L'ho lasciato originale normale come dato l'apparecchio, quindi è perfetta. L'apparecchio è nuovo, cazzo, l'apparecchio è nuovo. Avrà 5-6 ore di funzionamento, infatti. Ma fatto, come ha fatto strano, Però è insistito quando c'era la corrente nell'antenna, ma c'è stato dalla massa, perché io mi accendeva e cacciavite l'antenna, capito? Adesso ci ho messo la massa e è corrente, non ce n'è più. Già lo credo, cazzo, ci mancherebbe. Ti hanno staccato prima di tutto il dissipatore che va piazzato dietro al finale, dopodiché l'isolatore che va da bullone alla, come si chiama, al dissipatore, cioè da bullone al TDA 2002, quindi a un certo punto in pratica il bullone è come se lo stesse, hai capito? Invece lì cosa hanno fatto? Hanno preso e gli hanno tolto tutto, hai capito? È logico che a un certo punto ti sei bruciato. L'unica cosa è quella. Io infatti me la sono accorto subito, dopo che ho fatto le salvature, e il finale funzionava benissimo, hai capito? Se no sarebbe bruciato anche l'altro finale, invece no, sono stato più furbo io. A un certo punto ho preso e l'ho collegato così, infatti se guardi dentro c'è l'isolatore e c'è tutto, è a posto, adesso non si brucia più, l'apparecchio rimane è come nuovo, non puoi cioè installare tu un TDA 2003 agganciato cazzo, allo chassis cazzo, insieme a altri finali, si brucia in automatico. Adesso io non ho capito che il diavolo l'abbia fatto una cazzata leggera, ma comunque sia, qualcuno l'ha fatta, questo è poco ma sicuro. Io non l'ho fatta, io ci ho messo l'isolatore e ci ho messo anche addirittura il bullone, adesso come si chiama, quindi rimane, il finale rimane isolato, è capito, scalda ma rimane isolato. Quello evidentemente è stato, voleva fare chissà che cosa, quando ha visto che il finale scaldava, ha preso, ha attaccato tutto, hai capito? E a un certo punto si è bruciato tutto, tutto lì. Ma infatti scaldava, scaldava, e poi la radio già l'ha sentita, era tutta rauca, tutta malandata, capito? Metti adesso invece è perfetta, va benissimo, adesso è perfetta, e poi già mi stai ascoltando. E appunto per quello, esce forte, quei finali sono da 20 watt ognuno, sono, se lo vuoi sapere, sono i finali del Clarion, dello stereo Clarion, che si montava una volta in macchina, tanto per essere chiari, montavano il TDA 2002 e il TDA 2003 audio, hai capito? Quando gliene monti due, in pratica sono 10 e sono 20 watt, hai capito? Eia, è quello d'Antonio. È partito il Capaiano, è partito. Oh, ma non ce la faccio ancora. Stiamo cercando il pezzo, se non si trova lo compro, cosa vuoi dire? È un casino, cazzo, non va, che non si, ci sono i pezzi, cazzo, come si fa, cazzo. E poi sa cosa succede? Evidentemente non ne mandano uno, magari uno se lo mandano, si magari ce ne pigli 10 ce le mandano, però ordinandone uno non te ne mandano assolutamente, nessuno è. Lo so, purtroppo è così, ma già c'è qualcuno che li vende, è un casino, ma pure questi, capo, cioè, alla fine penso che siano componenti che, cioè, se ce li hai li vendi, chiaro, non recuperare già di più, capito? È un macello, ripredazionetti. E posso fare così, non puoi farci nulla. A me mi hanno risposto GBC di Sassari, GBC di Alghero, eccetera eccetera, vai su internet, vuoi i pezzi, ecco, se vuoi i pezzi te ne pigliare 10 alla volta, e quindi io cosa devo fare, il negozio me lo devo fare, gira cazzo, per riparare 5 barattini cazzo all'anno, non saranno, cazzo. Io penso per me, non penso per gli altri, il discorso è quello lì, non posso spendere, per dire, 40, 50 euro, cazzo, di pezzi per fare un barattino, cioè se si fa un barattino, non esiste, il discorso è quello lì. Siamo arrivati a quel sistema ormai, hai capito, Anto, il discorso è quello lì. Chiunque, l'ho scritto anche su Facebook, chiunque voglia farsi riparare un apparecchio è meglio che vada da qualcuno che ci abbia i componenti, se li faccia arrivare, dopodiché una volta che se li fa arrivare il componente è quello, basta, io glielo cambio e basta, tutto lì. Ma te volevo dire, Antone, tra me e Gio Maria che differenza c'è di segnale? Che siamo tutti e due latte dolce. Ah, passaggio. 2, 3, prova. Prova Gio Maria. 1, 2, 3, prova. Ma io so 4 fatte. Sono al minimo, Antone, sono al minimo. 9,15 è lui. E tu sei 9,20. 9,20 lui 9,15. No, allora 9,15 è Gio Maria, 9,20 sei tu. All'incirca siamo lì, là. Poi da un all'altro cambia, ma non mi interessa, l'importante è che arrivi, che si riesca a capire, capito? Poi, ormai, non vale la pena, ci andiamo, ho 4 watt anche troppo, ragazzi, i sassari che ci sentiamo. La potenza ormai, i tempi sono finiti, ma sarà 4 watt anche troppo, così Antone. Puro troppo, Ho sentito, E già lo sento io. Attore, questa radio non le piace. Che c'è troppo minoreto. E allora, di la verità, attore. Dillo, attore. Vabbè, non me l'ha fatto modificare, quindi cosa devo dire? Se l'avrei voluto modificare, l'avrei modificato con l'apparecchio, lo sai. Anche tu. Di potenza, di anche di amplificazione, ma ti ho detto non toccare nulla, lascialo così com'è e basta. Originale mi ha detto. E così ho fatto. Infatti, cosa lo tocca? No, lo faccio, non si toccano, no. Io non fa mai faccio toccare apparecchio, no, sono sempre originale. Cazzo, quando si guarda non si può accostare di un lampo, però esco sempre con i fatti normali sui, poi si può forse, è meglio che sia giù forse, a me non mi interessa la forza. Ora si devo forse e basta mangiare spinaci, vedrai che sei forse tocco. Ma adesso non sono con 5 watt, 5 watt tondi tondi. Noi siamo vicini a tu, però ti sento benissimo, sai, se sei vicino io ti sento perfettamente. A tu invece è più lontano, sento più lontano, sembra non fai orco, Tore. Fai forza, mi sono buttato, c'è taro goggio, c'è taro bonti. Vedo un po', cazzo. È quell'apparecchio tuo, quell'apparecchio, bene va. Eia, va benissimo va. Ma era in recensione, era in recensione che non funzionava bene. È vero, il finale bruciato. Era bruciato il finale, per cui adesso è stato messo, è a posto, tranquillo, e sembra nuovo la radio. Eia, ti credo. In trasmissione ci va bene. Recensione che non funzionava bene. Se gli è cambiato il finale, funziona benissimo allora. Dottore, guarda che in quella parecchio lì mancava il dissipatore, cioè non dissipatore, e l'isolatore per il finale, il TDA 2003, e più anche il, come si dice, quando tu ci infili la vite, che c'è quel l'isolatore, quello bianco, mancava anche quello, hai capito il discorso? Allora, è incallato quella specie di quell'integrato lì così, quindi a un certo punto quando tu colleghi in pratica l'integrato al dissipatore che è agganciato allo chassis, risulta in corto, hai capito? Ecco perché non funzionava. Io me ne sono accorto dopo, dopo che l'ho staccato, perché in pratica non conduceva più, in pratica era freddo, l'integrato era ghiacciato. Tanto per essere chiari, per staccarlo ho dovuto fare un casino, e già lo sa Gio Maria. Però per agganciarlo ho fatto memoria e me ne sono accorto subito, qui manca, c'è un problema, c'è. Infatti ho fatto così, hai visto che funziona bene adesso, è perfetto, funziona bene, c'è l'isolatore, c'è tutto, è scalda, tranquillo, non c'è nessun problema, hai capito, non si brucerà mai, È meglio così, è vero che è tutto tranquillo, per cui va bene così, riprendito. Infatti, se l'ho messo a posto bene, non si brucia più, perché non va più in corpo. Andava. Ah, perché c'era Giomari, c'era Antonello, Antonio, buonasera Antonio che non l'ha già salutato. Non so che ci sia. Oh, buonasera, buonasera. Buonasera anche a te. Eia. Già andiamo me così. Fa. 5 watt modulati, già andiamo. Pure uno mio. Ma tu, cosa vuoi morire? 50 watt, cazzi sattari, che siamo a due bassi da uno all'altro. Cazzo. Cosa li fai della potenza la sedere alla base? La sai fare a capo e pesci più forti. Noi sassari, quattro vatti anche troppo, ci sentiamo tutto sassari. La cappa, sì, no, no, già. Adesso che scendi con 5 watt sto uscendo. Già va bene, tanto siamo vicini, siamo. Ehi, oggi una bella barriata giacuta, oggi l'ho acceso l'altro, vabbè, l'ho fatto scaldare un po', dai, poi l'ho spento. Ma già va bene così, da. Ah, va bene così, dai. Oh, ti sento perfetto, lo sento che siamo vicini, ti sento perfetto, perfetto, chiaro, bello e pulito. Vai a Torè, oh aspetta! A Torè lo si è parato e si accende la bionda. Eppure Torè, ma sicuramente io da qua ripeto tutto il mondo, la tua antenna è quella di Torè pure, anche se distante da me. Ma piatta, ragazzi, cosa è più Torè, lontano, ma piatta, in via d'aria, e poi tutto libero, per cui va bene ugualmente, dai, anche troppo, però tu. C'è uno schioppo da Antonio, ma so qua c'è lontano, no? So come se non ero Monti, sembro Monti e so come ho attaccato. No, io sono un po' più su, io sono verso Gio Maria, capito? Quanti siamo noi? 150 metri, nemmeno pure. Anche. Da Torè, cosa sarò? In linea d'aria. In linea d'aria non c'è tanto. Sarà un chilometro, dai. Sarà un chilometro tra un curvo e in sassolo, nemmeno pure. Così è to. 200 metri. C'è 50, da me 200 metri. Vedo un po' così che cosa. Potete vi vuole, certo. Anche con 2 fatti ci sentiamo perfetti, anche con 2 fatti ci sentiamo perfetti, perfetti. Cazzo, se tu metti 2 fatti, da Torè arrivi benissimo. Beh, vabbè, 2 fatti li posso anche mettere, però no, ma sono, se ci vuole sempre quella sufficienza, ci vuole 4 watt, 5 watt al massimo. Basta, basta e avanza. Ma l'altro esce con 2 watt, l'altro esce con 2 watt, cazzo, diglielo, so. Con 2 watt arrivo dappertutto i sassari, una pozzidorra arrivo con 2 watt, diglielo, so. Purtroppo è così, 2 watt non di più. Ecco qua 2 watt, buonasera. Sarà lei. Buonasera, ben risentito, come fa? Ciao Giamai, va bene? E tu, tutto bene? Ciao Torè, ciao Antonio, 2 watt in questo momento, come sempre del resto, non ne metto mai di più. Ma cosa le fai a mettere di più? A che cosa le metti a fare? Ma dire che sei forte, ma va bene anche con 2 watt, arrivi benissimo, e cosa vuoi di più? Comunque, mi hai sentito giù, vai a tu. Ha passato e mi hai sentito Giulio. Ciao Antonio, ci siamo sentiti anche stamattina, dopo la passeggiata, e poi sono rientrato e adesso sono qua di nuovo. Va bene, va bene. Avanti Torè, con 2 watt arriviamo in capo al mondo. Arrivo a Sentino io con 2 watt, presto un po'. E va bene, io te ne do 3 in più, te ne do. Quindi io sto uscendo con 5 con questo. Quindi già va benissimo lo stesso e a Puglia, già ci sentiamo tutti quanti. Oggi mi sono arrabbiato, mi stavo per incazzare come una belva oggi. Sono andato dalle Fornici, mi ha preso niente. Arrivato, stavo scendendo da Platamona, però dall'altra strada, mi hanno appunto d'ora. Ma cotto un colpo era morto, ma cotto. Cioè, proprio, pensavo che avevo increpato. Invece no, hanno accelerato, la benzina. mamma mia la bestemmia che ho dato, mamma mia, per fortuna poi accelerando ne è uscita, però io ho rifornito poco prima il fornitore di lì, adesso vediamo domani mattina, se la moto fa problemi io tocco la benzina e gliela faccio mangiare, perché anche sa niente, cioè perché io l'ho pagata la benzina. Ah, allora c'è l'acqua, allora c'è l'acqua, facciamo così, c'è l'acqua, è per quello, tranquillo, ma sa togliere e ripulisci altra benzina come si deve. No, oh, per fortuna poi ha accelerato, poi ho accelerato e poi gira fatonda, torna. Cioè, ma veramente, ma perché mettere in giro questa roba? Cioè, veramente, ya. Esattamente, questo armatoio era già respirava benzina e acqua, così è giù. Ecco quello che costa l'acqua. E quello è il problema, tu. Ti stanno facendo pagare la benzina al costo dell'acqua e l'acqua al costo della benzina. Non sono macchino. Ti giuro che pensavo, siccome mi ha dato il colpo, ti giuro che pensavo che avevo ingrippato, invece no. Detto, cioè, cosa cavolo è successo? Mi sono fermato, mi sono subito, perché siccome stavo anche accelerando un po', perché ero scendendo, c'è quel ponte dove c'è quel tubo lì in discesa, mi ha dato lì il colpo. Invece poi mi sono fermato e deve essere che c'è uscita e poi si è rimessa a posto. Ma poco era incazzato, mamma mia. Ma dove sei fornito tu? Qua è sopra Danieta. Sopra Danieta ve ne so tre. Quello dove c'è la centrale del latte vicino, cioè, che si gira con i ventinari cinesi, che mi... Ah, ti ho compreso. Ma quello di Uscia? No, quello di Usciano. Allora tu scendendo c'è la centrale del latte, giri dove c'è Testoni lì e c'è il riporto di tavola dove c'è la Esso lì. Ah, la Esso l'hai messo. Ma il camion rifornendo c'era? Non l'ho visto. C'era il camion che stava rifornendo, qualche cosa di sporco te l'ha messa in mezzo. Cavolo, non vorrei che mi fosse a danno al motore, perché ho rifatto il motore da poco. Cazzo, ci ho speso 200 euro. No, il motore non ti faccio nulla, solo che faccia per lo carburatore che è tutto pieno di roba sporca. Ecco cos'è. Tocca pulire il serbatoio e il carburatore, tocca pulire. Ecco cos'è. Quando c'è che stanno rifornendo con il camion, si riempie tutto di cose, si riempie, ecco cos'è, non bisogna mai rifornire quando per un camion. Io non ho, la verità non ho visto il camion che ha rifornito, non l'ho visto proprio, è andato, l'ho messa, sono uscito dai Chivi, comincia già a fare la strada, manda a Porto d'Orra, perché poi io giro lì, giro e piglio a Platamona, lì sono arrivato a discesone dove c'è quel tubo che c'è, cazzo mi ha dato questo colpo, mamma mia, mi sono spaventato, ho detto meno mi ingreppato, invece no, poi vado a vedere la benzina, era usando i vaffatti, ti hai messo roba sporca, quando è così non bisogna che non la vai da, c'è per un canno che sta rifornendo i serbatoi, so tutte che ti vuole, c'è tutta la cosa che va dentro, ecco cos'è, oh, pure le macchine così mi fate così e tacciate tutti i vetri, tutti brutti, però ecco i padetti che tutte delle danne. E se pigli un coso, un BMW, un Mercedes, di quelle macchine importanti, fai un bel di danno, fai. Ma fai danno a vero, me. E a me mi è passata una bomba di la benzina, 250 euro, e non mi hanno pagato, né manco. Fatta lì, e la bomba di un gasolio ti ha cremato. 250 euro, la pompa elettrica mi ha cremato, capito? Perché erano sporche le cisterne. Quando sono andato erano i disarrati, a chi ne erano i capelli di cisterni da sotto terra, no? Perché erano tutte, deve essere rugginose e cosa. Sono andato me, mi avete fatto danni, no? 250 euro l'ho pagato. Non mi hanno pagato, lo sai cosa vuol dire? Che non me ne hanno, non ne ho più messo lì bene. Sì, ma sai quanti clienti erano messo che sì? Paola, ha risarcito un sacco di gente, ha risarcito, poi ha detto boh basta, non risarcisco altro nessuno. Molti gli hanno detto, perché non mette il cartellone e si ferma? Tutto quando sta rifornendo. Manda via tutti quanti, manda via quando sta rifornendo i serbatoi. Detto perché devo mandare via e vado per pagare per forza, non mi dite già perché la bocca d'altro che se ne è pagato cosa allora dalla volta ha detto che metteva quando c'è il camion che sta rifornendo deve avvisare alla gente che non riforniscano, che vanno da un altro posto a rifornire, ecco cosa devono fare. Ma non ne fanno, c'è sempre l'acqua, c'è. Invece queste, quando ho rifornito io in Viale Porto Torre, sei lì, il primo che c'è è il rifornitore, perché rifornivamo le macchine del comune lì noi. E allora quando stavo lavorando al comune è successo infatti. Riforniamo le macchine noi, ti ha già rifornito burro a me anch'io. Cavolo, mi ha fatto un danno. Pensava a me non mi è successo nulla, quando vedo il camion via mennando e ando a un rifornitore. Non rifornire mai quando c'è il camion perché c'è sempre l'acqua sopra e ti va di danno. E non si arruivano, pure lo sporcizio a Trento, che ti fa dire tutta la sporcizia quando c'è rifornendo. E bisogna, per fare la cosa devi lasciare riposare. Infatti, è proprio così. Io lo stesso non ho rifornito più lì, perché mi aveva fatto danno e non me ne ha pagato burro. Cazzo, ma via tutti gli cisterni arrugginosi dei passetti, viene di ruggina, saranno i sardi, tutti brutti, bucci. Infatti quando le hanno messe nuove, però io non ho rifornito più lì, assolutamente. E io se ne ho perso poco di clienti, sì, è sempre nel pillelli in Chivi. Infatti quello di Aushan, quello lì, quando stava rifornendo il camion, dice, avvisa il cliente, guardate che sta rifornendo il camion, se volete andare in un altro posto, andate in un altro posto, perché con la cosa come rifornisce gira tutto quanto il materiale che c'è, quindi bisogna lasciarlo riposare. E li manda via, li avvisa, e se ne va la gente. Infatti io un paio di volte arrivo a Grugano mennando e hanno a Turugu. E a chi tu lo usai, ma non sono tutti chi lo usano, io burro lo so, quando vengo a camion tiro dritto. Cazzo. A chi è mostrata tutta la roba, mostrare già tutto quando buone una fatta nuova ora benzina. Non è rifusata, ti provoca già danno. Cazzo. Poi mi la macchina mia, mamma mia. Cazzo. Quella lì già da poco mi è successo attorno, mi ho dovuto svuotare tutto, ci ho dovuto buttare un pieno di acqua, un pieno, ma ci ho dovuto rampare, perché non ho rifornito nel solito rifornitore, ero rimasto con poca acqua e ho rifornito da un'altra parte, ma era così a basso, roba di danno. Oh no, io quando vedo che c'è il camion me ne vado via. Non ne metto, vado ad un altro rifornitore che non c'è il camion, accorgio e sono tranquillo. Sì, infatti. Cazzo. dopo questa nappata, né da né sida, né era questa nappata. Invece è che verdolina chiaro, come quella che metto a Canica, io vado sempre lì a rifornire adesso, non ci vado più dagli altri. È stata piena di alghe, Comunque c'è un prodotto che ammazza le alghe. Guarda, nera ne è uscita. La nappata nera ci avevo nel serbatoio. Un pieno di nappata da giudice Durantà. Capito? Da poco mi è successo quello lì. Io vado da mio genero una volta al mese e gli metto il flaconcino, gli metto dentro nel serbatoio e si mangia la forcistia, si mangia con l'affare lì, ti pulisce tutto quanto, ti pulisce, però costa quasi 20 euro. E io pure ho giocato così, quando ho pure il serbatoio, no? Ha giocato 20 euro di gasolio e poi ci ho buttato dentro un flacconcino di quella roba. Da voi ha giocato Rubieno. Prima l'ha giocato Vaghi sulla Vagioli, perché se arriva all'iniettore ti fa un danno e ti costa più di 1000 euro. Infatti io vado una volta al mese a farmelo mettere, a mio genero. Non si sa mai. Agitò, non si sa mai. No, gli fanno la della luce, invece no, fanno mi do, passe tranquilli. Ah, non mi è successo mai nulla. Sì, a me due volte mi è successo, una volta mi ha rotto la cosa, però lì c'era tutti e mezzo, che c'erano le cisterne tutte rugginose, infatti le ha cambiate. Però bisogna più andare in chi, ma preso burumente cliente. E quel flacconcino, ogni volta che fai il pieno ci devi mettere uno di quei flacconcini lì. E tu sei un signore. Quasi 20 euro costa. 19 e 26 mi va. No, io lo pago desi. A Canica io vado e la nappata lì è pulita. Comunque glielo metto lo stesso. Quello proprio per il gasolio. Vabbè. No, io lo pago del coso lì perché è quello che metto sempre e non lo cambio. Uso quello e boh, una volta a un mese, mangiamo. Quella mia volta la macchina, mamma mia. È di lusso veramente quella macchina che ho io. No, non consuma niente più. Ok, ciao, una serie ben entrata. È un macello, un macello, infatti, quando stanno riponendo i serbatoi. Allora, è come quando volete l'affetto abolisce, la stessa cosa, gira sotto sopra e distacca tutta la purigine che c'è nei serbatoi, per cui non è pulita, ecco. Bisogna lasciarla riposare, allora va bene, ma se no la pompa assorbe tutto lì. Vediamo poi se c'è ancora Giulio. Giulio? Sì, ci sono Gian Maria. Stavo aspettando che completassero questo discorso della nappata, che hanno ripetuto le stesse parole 30 volte come minimo. E noi in parcheggio mezz'ora, Gian Maria. Ma non fa niente comunque, stavamo ascoltando ugualmente, non c'è problema. È logico, perché se si va in un posto dove il gestore della stazione di servizio che se ne frega di fare il rifornimento, perché in fondo nel posto c'è l'acqua come fondo e quando fanno il rifornimento la benzina, tutto il carburante rimane sopra, però loro cosa lo fanno? Anziché fare il rifornimento per tempo fino alla fine, perché a un certo momento risucchia anche l'acqua, la pompa di distribuzione, e uno paga l'acqua al prezzo della benzina. Ciao Natalia, beh. Male mi sento, sono a dolori, ho acceso adesso, non lo sapevo neanche che c'eri tu e Gian Maria. Oh, yeah. Ben sentiti comunque, male mi sento. Vabbè, tutti quanti ci sentiamo un po' male, lo sai come te, la vecchiaia carogna, l'abbiamo sempre visto e sarà sempre così, non cambieremo mai questo dire. cui io, va bene lo stesso. Avanti, Tore. Infatti, io da un raffreddore mi sento a padarare, sto, mi ha detto di continuare a mettermi le gocce, piano piano mi ha detto che già si fa parasura. È vero, me che rimane occupato, un trabalo nuovo, se lo vuoi ti do presto, ma è trappato quello trabalo, ma anda così, Tore. No, viaggio a percussione, a batteria, viaggio. Ehi, sono quattro io, e io vado, lo trappalo la colonna, lo trappalo la batteria, lo trappalo a filo, e più il tassellatore, se che quattro trappali sono in tutto. E attore anda per il tassellatore. E se viaggio a Buru, e te vado a Buru a Motopico, di vado. Io sono da reddo, mi vedo come ti fa tirare a gamba. Cazzo Giulio, ieri a Pizzi sono arrivato a Olbia per farmi l'attacco. A Olbia ti so che tu dici a chi non finire a Rubi, no? Ah, sta beccato, guarda. Se l'avessi saputo la prima, ero gli ultimo zecco. Sei dovuto aspettare un anno come minimo, e allora ho preferito pagare 270 euro e ho risolto il problema, nel senso che ho fatto la visita. Per cui, adesso la prossima non me l'ha nemmeno ordinata, mi ha detto no, basta dare l'attacco adesso la prossima può fare solo l'ecografia, che va bene lo stesso. L'attacco è più completo, la visita più completa, però nelle condizioni in cui si trova lei adesso è sufficiente fare solo l'ecografia, per cui me dovrò anch'io prenotare per tempo, se no devo pagare pure bagisso. Pensa un poco, la risonanza mi vedete in questi giorni ha pagato 300 euro per la risonanza, o Gian Maria, riprendi. Stiamo andando bene. Aspetta, scusa un attimino che c'è gente. Ok, riprendi anche tu. Andare a pagamento perché non ce n'era, è inutile. Purtroppo la sanità adesso è orientata su questo discorso qua, fare pagare la gente, l'hai compreso come c'è, perché la sanità vuole risparmiare e la gente boh, va nelle BPD, ma finché uno è ricco non gliela frega niente di spendere 2, 3, 400 euro per fare la visita, ma a uno che vive dalla pensione, come viviamo tanti di noi, è come se fosse un pochetto bizanti. Avanti, Tore. Infatti è così. Ma già si gira ad uno, che ci ha mandato la finanza. E l'ha detto, cioè non mi fate adesso delle cose, picchiamo la finanza, allora vedete che finite queste cose qua. Questa è già una denuncia che sto facendo. E Virani vatta immediatamente, Virani vatta. E subito Buru. Evidentemente quello lì è stato fortunato. Però di solito non te ne fanno, anche se ci vai in quattro, non te ne fanno, se non paghi. Però sono stati anche corretti, a me intanto me l'hanno fatta alle 9 di notte, l'appuntamento, me l'hanno fatta, no, durante il giorno, no, alle 9 di notte, anzi, per l'esattezza alle 9 meno 4. E poi tra attesa e tutto sono diventati i disi, sono diventati di notte. E 270 euro. Però sono stati onesti che mi hanno fatto subito la fattura, senza chiedergliela, hanno fatto subito la fattura. Vai ancora, Tore. Vabbè, che già si può scaricare quello, se ci hai messo, non tutti te li danno, ma una metà te li danno in aromato. Infatti è così. Ma bisogna fare in un'altra maniera, bisogna fare, ecco cosa è. Anzi, sta senti vicino che non rubatemi, ecco cosa è. E troppa gente può guadagnare, troppa gente. Ma non è quello. Troppa gente, cioè. Da poi, gatta, a chi si ripete, con case belle, con ville belle, tu cazzo non vedi di fame. E allora? Cioè, lasciamo perdere, va, non ha giocato, non sa quanto di tanti cazzi sono cantati di chi sta ieri, andare a capare i popoli, e di tutti i pezzi branciati, tutte le case belle, tutti i pezzi vissuti, e tu, mamma mia, qua, non ne voglio manco far vita qua. Ok, detto questo, io vado a fare la pasta, va, che anche tu puoi mangiare. Ok, continuate. Un attimo, sto chiudendo via, dai. Ciao, ci sentiamo, buon proseguimento. Ciao Tore, ciao Giulio, ciao Natalino, ci sentiamo al prossimo, c'è gente, devo chiudere per forza. Ciao Giulio, riprendici. Ok, ciao Gianmaria, alle prossime. Grazie per la chiacchieratina, dai. Buona serata e buonanotte, quando vai a dormire, oltre che buona cena. Ci sentiamo. Avanti Tore per salutare Gianmaria. Ok, ciao Gianmaria, stammi bene, alle prossime, a risentirci. Ok. Avanti Natalia. Ciao Gianmaria, ciao Antonio, alle prossime. Chi c'è rimasto? Giulio, avanti. Ok Natalia. Beh, allora comunque ti hai fatto la passeggiatina, voglio dire. Vabbè, ti mi ha fatto 200 km più o meno tra andata e ritorno. Che sei contento, cosa vuoi? A me l'hai fatto saldare il motore della tua macchina, ragazzi, che tieni da sempre in parcheggio, cioè lì dove la lasci tu, te l'hai fatta camminare un po' garito, così hai recuperato tutto il tempo che mi basta ferma. Avanti Natalia ancora. No, negativo, mi ha accompagnato un amico, io non potevo guidare, con questi due di qua. Assolutamente. Mi ha accompagnato un amico mio con la sua macchina lì a Olbia ieri, ma so che arrivi da pezzi, a Durori, guarda, non ne posso più. Infatti adesso come abbiamo il risultato di questa attacca mi ricovereranno sicuramente, anche perché mi devono fare una cistoscopia e vediamo un po'. Oh Isanca, sono messo male. Ma dolori anche adesso, sono caffuta di gruppe, io non ho questa. Ho capito, in poche parole il disturbo dove ti sta dando tutto questo fastidio, dov'è? Ma è sempre una gamba? No, quella è a parte, no, alla vescica è. Sto crepando dai dolori, maledizione. Sì, prego, canale di invalidi. Vabbè, quello ci sono passato anch'io, per cui grazie a Dio ho risolto, o meglio, mi hanno risolto il problema i medici. Va bene, comunque, speriamo bene. Auguri Natali, cosa vuoi che ti dica? Non posso dirti altro. Comunque quando ti ricoverano qui urologia, già sono bravi, già sono, perlomeno quando c'ero io, erano dei medici bravi, tutti gentili, anche le infermiere, gli infermieri, tutti quanti, gente veramente a modo, poi se hanno cambiato adesso non lo so. Avanti Tore. Io so che c'è stato uno che ha fatto breco, avanti il breco. Giusto per salutare, perché c'è un canale di invalidi, tutti messi male, va bene, ciao Fabrizio, un saluto giusto per salutare. Ciao Fabrizio, mi senti ciò, aspetta ti passo gli altri, avanti Natalia. E ciao Fabri, ben sentito, avanti Giulio. Ciao Busto Dorreso, ciao Fabrizio, dopo tanto tempo ti risento, è un piacere sempre di ascoltarti. Ok, avanti oggi. E che si dice? Se siamo la ventenne che siamo tutti altri malati, cosa vuoi dire a questa età? Poco da dire c'è mia, oggi. A te, ti piglia in giro Burumi, ti piglia, chi è che andiamo a muovere un chicco? Non ti preoccupato, che non viene un tempo, ma date la maga a tutti altri, non ti preoccupare. Senza augurare il male a nessuno, per carità, ci mancherebbe altro, anzi, tutto il bene di questo mondo, però quando si arriva non dite dai, sta tranquillo, sei segnalato. Bene, tu. Dai che non rusa. Andiamo, dai. Natalia, perché siamo vecchi, gatto, siamo tutti ammalati, ci prendono anche in giro, ma già invecchiano anche loro, non ti preoccupare. Io glielo auguro un grandissimo invecchiamento, proprio in grandissima salute per tutti, finalmente le dai fuori i gampaedi, non che hanno deciso il destino, no, fino a quando una regalaedi, che significa sempre praticamente, va bene lo stesso. Fabrizio, ci sei ancora? Sì, ci sono ancora, dai, rimango in ascolto, sto facendo qualcosa qua, era giusto per salutarvi. Vabbè, ho visto che questo canale di invalido, e te dici che entra anch'io, ultimamente anch'io sono un po' rotto, e quindi te dici che se ne teste ci buttiamo nella mischia. Dai, un abbraccio, già sono qua in ascolto per un po' ancora e poi mi allontano. Ciao a tutti. Ok, ciao Fabri, grazie per essere entrato a salutarci e a sentire le nostre novità di salute. Spero che quello che hai annunciato per te non sia niente di grave, magari sarà un semplicissimo raffreddore, quelle sono cose di giornata, o meglio di qualche ora, niente di più. Va bene, ti mando avanti gli amici per salutarti. Avanti Tore per salutare Fabrizio. E ci risentiamo alle prossime, Fabri. Ben sentito, alle prossime, ok. Vai Nathalie. Cappa, ciao Fabrizio, ben sentito, dai. Buon ascolto, buon proseguimento di serata. Avanti. Avanti Durritano. Ah beh, sì, che sei in competizione con Bagnaia e con Martini e oggi, vero, è un chissà molto potente che vai tu, che sei in competizione con Bagnaia e anche Martin. Vabbè, quando tu vai lo che ti serve, va, sarò a puttisdini e l'altri, dopo non ti preoccupare, mai invidiare nessuno. Vero Nathalie? Sì, infatti io non ho mai invidiato nessuno, la verità si dica. Volevo dirti, come sto uscendo di radio, perché sto usando il microfono normale, capito? Quello là era troppo scandaloso, che si sentiva a televisione, se ne sentivano poco di cose. E allora se lo consiglio, se posso permettermi, usa sempre quello il microfono, perché se no è un cinema, la radio tua in questi ultimi periodi è diventato un cinema, si sentiva più la televisione, anche se io non te lo dicevo, ma certo te lo dicevano gli altri, ma poi a me non mi interessava di come uscivi tu, io ti ascoltavo ugualmente, per cui va bene, non c'è problema, usa quello che ti pare ti piace, per me va sempre bene, avanti Tore. Fate così, dai così, e vabbè, già si sente benissimo anche con quello, quindi non ce ne sono problemi. E il segnale basso di cosa sento? Ah, no, c'è il buco di Rainoghi, segnale di 5, già lo ascolto. Ascolto benissimo. E io l'ascolto in mezzo al QRM all'amico di Porto Torres, capito? Ma cosa ne fai della potenza? Arriva bassino qua, forse perché sono troppo coperto io. Eugenio a Porto Torres, per cui vuol dire che ci arrivo anche con meno di 2 watt. Avanti Eugenio. Vedete la sua voce non è penetrante, forse come la mia in questo momento, non sempre però la voce mia è penetrante, ma in questo momento sì, perché di solito dopo un po' di tempo mi si abbassa. Comunque, provvedi Tore, fatti sentire chiaro da Eugenio, vai Tore. No, c'era qualcuno che in qualche altro canale che era troppo forte, non la gente su Bannunda, la pappadura, la metà di quante con QRM, quindi poco fa l'ho sentito, ma l'ha interrotto qualcuno. Perdonami, sono stato io, ero sul 20, ero, che stavo facendo una prova e perdonami, scusami, capa, mi sono un po' sulla magna fava. messo è. Oggi fate risentire. Sono non capisco quando parla, c'è un tu, non lo capisco quando parla, mi spiace. Ma a cosa stai dicendo? No, non lo so se la sei, ciao, che ho sto facendo attore, se non riesco a capire quando parla. E poi il segnale c'è qua, però non riesco a capire. Cappa, ti saluta, capi, ti saluta l'attore. Cappa, aumenta un po', magari è per quello. Come ti arrivo io a Porto Torres? Fuori di te, fuori di Mannose. Aspetta, guarda adesso a vedere. Adesso ho aumentato, io sento benissimo, vabbè che è vicino però. Stacca tu che hai rovinato la radio, era più bella quando stavi dicendo quei 5 watt, stacca. Capo, no, questo è un altro apparecchio. Vabbè, abbassalo allora. Sì, non ti sente Tony, non ti sente Eugenio. Avanti Eugenio, l'hai ascoltato Tony, ho visto un passaggio che ha fatto. Aspetta un attimino, che faccio con un altro. È strano, perché dalla posizione dove sei tu, dove sei in varia bomba lì da Eugenio. Ecco Antonio, volevo farti notare che io con i 2 watt scarsi, hai visto che mi sento a Porto Torres, ho detto mi sento anche a Sentino, per cui non c'è bisogno di mettere watt in più, non serve a niente, anzi serve solo a rovinare la radio, l'intelligibilità della radio, rovini e boom, basta, il segnale aumenta, ma la radio però poi diventa troppo un po' cupa, vai a tu. Vabbè, io adesso la verità, adesso sto spingendo parecchio pure, sto spingendo, no perché volevo fare la prova per vedere come arrivo a Porto Torres, capito? Sono quello, però posso fare anche così, guarda, aspetta. Così, come mi senti adesso, vero? Con 2 watt poco fa. E magari mi senti più basso per quello. Senti meglio, di sicuro, guarda. Stavamo parlando di quello poc'anzi, no? Non serve a nulla mettere potenza, non serve a niente. A parte il fatto che magari puoi disturbare anche i colleghi che sono negli altri canali, no? Io la penso così, poi fai come qui, io sono solamente esprimendo il mio pensiero, poi tu sei padronissimo di fare come ti pare, ti piace. Riprendi ancora Antonio, fai girare poi per Natalino che è un po' in pausa. Sì, Antonio non riprende, dai. Volevo sapere da Eugenio se mi sente meglio adesso, perché ero con 2 watt poco fa e forse arrivavo basso per quello. Ma che storia? No, è Natalino Eugenio. No, Natalino, ascoltavo, a voglia. Sì, ti ascoltavo, ma sai, buonasera. Niente, attore, solo attore. Attore non riesco a sentire. Sì, ho capito, senti male, solo attore, dai. Riprendi Tore a vedere se hai migliorato qualcosa. Di chi era quella portante che non è uscita in radio? Niente radio. Ora, adesso c'ho il vato dell'apparecchio, c'ho. Eugenio, mi senti? Vediamo un po' qua. Adesso leggermente più chiaro il tuo compagno. Leggermente più chiaro il tuo compagno, sì. Però c'è sempre questa patata in bocca, boh, non lo so. Sarò io, boh. Ma vabbè, quello è il microfono, Però va meglio, va un po', ho perso un po' il segnale, però va meglio, no? Sì, è leggermente più chiara, sì, leggermente più chiara. Però non riesco a capirti adesso. Antonio sono. Non c'è bisogno che te lo spieghino, già lo sai benissimo, che se metti in potenza non fai altro che governare la radio, tutto lì. Infatti ce lo sta confermando anche Eugenio, che la radio è più bella, più pulita, insomma, ecco, tutto lì, soprattutto per quelli che sono vicino a te, quelli che li ammazzi quando usi una certa potenza. Ho già fatto se c'è qualcuno altro in un altro canale, lo dissolvi proprio, lo chiudi definitivamente, non lo fai sentire per niente. Vai a tu. Ne avevo più di 100, già non credo che ti chiedo che ti fai danno gli occhi. Adesso ne a mio avviso. Oh, sempre questo sto utilizzando come coso, come microfono. Ecco, che stai dicendo una meraviglia. Adesso la radio è brutta. Va bene, signor Di Bede, grazie per la chiacchierata, ci sentiamo. Dai, io chiudo perché ho terapia da fare. Ci sentiamo. Ciao Natalino, Eugenio, Tore, Antonio. E Gio Maria si è ancora all'ascolto e anche Fabrizio se si è ancora all'ascolto. Saluto a tutti e ringraziamenti per tutti. Ciao, chiudo, ascolto il finalino e poi chiudo. Avanti Natalino. Ciao Giù, buon proseguimento di serata. Ci sentiamo alle prossime, ne approfitto per chiudere anche io, salutando tutti, anche quelli che sono in ascolto. Alle prossime. Ciao, ci sentiamo alle prossime. Ma pure io adesso vado a fare la pasta, quindi devo chiudere, sta facendo il suo. Allora devo chiudere adesso perché devo anche togliere il bambino e tutto. Ce la sentiamo alle prossime, ciao. Ciao a tutti, dai, ci sentiamo, ciao a tutti, buona serata. Antonio. Ciao di nuovo a tutti comunque, buona serata e buona cena per tutti, ciao, chiudo. Tore. Sto cercando di salutarmene. Va bene, dai, ci risentiamo, ciao, alle prossime. Ok, saluto anche a cose di Porta Torres, se mi intendi. Ci risentiamo alle prossime. Ciao Natali, alle prossime! Buoi canarini, viso. Ok, ciao, Tor, ci sentiamo. Ciao Eugenio, ti saluta Tore, non l'hai ascoltato, ti faccio la ponte. Ciao, chiudo, buona serata, buonanotte a tutti. Ciao a tutti, ciao, buona serata anche a voi, ciao. Presentaci alle prossime, ciao. Fischia qua.